perché sono tutti quanti, capito, con il coronavirus. Hai capito, beh, così parli con muro, dato come puoi uscire di casa, attacchi un tubo e parli con vicino di casa, come tempo di guerra. Sicuramente non cose, dovrebbe di chierica. Allora. Ma andare si può andare, hai capito? Se non in bagno si può andare, a limite fai il simulato in campagna, fonti tutti lì, hai capito? Si beve il vino e così si toglie il coronavirus. Una volta che sono cotti, pigli e ti lo metti fuori in strada, in cosa, in campagna, sotto l'albero. Al limite ti pigli le zanzare. Come ora, a un certo punto, lo visto che avevano fatto nella zona della Lombardia, tutti qui sono venuti, capito? C'è la Maddalena, Calghero, che Cazzintino. Basta fuggire da lì. Ehi, d'accordo, ok, buona parcheggiata a te. E poi ci sentiamo domani, se devi lavorare. Se non lo faccio in casa qualcosa, ci ho voluto un po', non piace. Sto cercando di recuperare un po' la 5 minuti. No, te la fai qua da 5 metri, non c'è manco un cane. Per quello, per quello che pigli TMR, capito? Fai prima, ti installi un'antenna per il TMR e parli in TMR, intanto in 45 metri non vai manco un cane. E ci sono gli apparati, ci sono, non è che devi stare. Vai dai cinesi e ti prendi due portatili 888 Baofeng, poi non fai altro che prenderti un dischetto e ti imposti tu col computer. Ti metti le frequenze TMR e l'OPD. Se l'è fatta. Non c'è nulla, no. E io d'accordo, ciao, alla prossima, stammi bene. Ehi, ciao fra. Appunto, già è un giorno che ne uso i 45 metri, figurati, anche se c'è la parete qui ci va la verità, ma non mi fate nulla, vado lì per faccio andare in TMR, a me lì c'è gente che ti fa compagnia, ci sono quelli della EON, ci sono i tecnici, di tutto c'è di più, bambini, ragazzi, di tutto è. Quella lì che non vanno a chiedere, capisco che è più pulita la cosa, ma non bene anche per fare i salsi di antenna eccetera eccetera, ma comunque c'è qualche parecchio in vendita, 11 40 45, l'ho sentito, l'ho visto su Facebook che l'hanno acceso, lo stavano vendendo, adesso non mi dicono quanto, ma la baratina vecchiami, non la parati nuovi, apparecchi tipo di Superstar 2009, una roba del genere, Tornaro. No, faceva 11 40 45, lo stavano vendendo, mi pare 120 o 140, non mi ricordo adesso. Problemi, figura di dire, devo attaccare la baraggera, io mi basta quelli che ho. ma sa va cosa. Ciò che muove, cioè le, questo è la 27 e l'altro, che è più grande, fa tutto. Solo che non c'è proprio immaginare di poter divertirmi come prima, capito? Il discorso è quello lì. Avevo quel temperamento come prima, perché non facevo nulla la mattina e la sera, il discorso era, perché mi andavo per questo, adesso ormai è già andato tutto. Il microfono è che da me che non usavo questa barattina qua, capito? Ho trovato uno di quegli alimentatori in legno, che ci mettevi lo stesso vento, ce l'hai presente, poi agganciavi le casse. Ho preso e ho trovato vicino a un cassonetto, ho collegato i fili, visto che l'alimentatore funziona, ci avevo collegato l'ala 7, ci ho collegato. Ci sta giusto nel foro dove c'era agganciato lo stereo. E qui mi sono fatto una specie di barattino che c'è le base. Già li vende, già ce li ha quei condensatori, già si trovano. Ma magari ne ho qualcuno anch'io, me devo cercare di mettere tutta quella roba che c'ho, magari quel condensatore ce l'ho. Virus a tutti. Ciao Marco, comunque il fusolo è aperto dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, la verità. L'ha messo su Facebook, quindi è aperto tutti i giorni. Evidentemente sarà per quello, cosa ne so, comunque è aperto. E addirittura il sabato apre alle 10 del mattino fino alla 1. Il volume in basso, ho sentito poco. Questo mi fa mezz'ora, ci abbiamo la pizza. Forse per me avrei preso roba più pronta da scaldare e mangiare, no? Quando ho fatto la spesa ieri. Solo che a me piace anche la pasta. Invece mamma la sta incornando la pasta. Invece mi sta subissando con altre cose che me ne ha fatto uscire dagli occhi, me ne ha fatto uscire. Cazzo, la pasta te meglio. Ah sì, la pizza a quest'ora. Vabbè, se avessi aspettato un'ora avessi pigliato la pizza dalla pizzeria, ma di quella che te le portano a casa, che è meglio. Ehi, ma anche lì che ne so io di che condizioni igieniche usano, magari per fare la sposta ci tossiscono sopra, che ne sai? Tutto è possibile. Scusa lì, ho fatto la spesa alla 1:30 io, dallo spin. Prima ho fatto quasi un'ora di fila, io sono entrato dentro. Dopo mezz'ora con quella mascherina delle chiusa nei muratori mi stavo sentendo male. Cosa c'era? Le fave c'era. Ho preso la roba, me ne sono uscito fuori immediatamente, mi sono preso una lattina, diciamo le gambe molli molli, tremolia alle mani e debole debole poi per le braccia. Ma sei fabbrico? Sì, anche Giovanna se sente qualcosa. No, non lo sapevo Antonio, se me l'hai detto non me lo ricordavo. Oggi sono rimasto a letto fino alle 4 e quasi a mezza, 4 e un quarto, tanto ho detto c'è un silenzio di tomba, ma di tomba. E poi di notte dormo sempre troppo da tardi, prendo sono molto molto tardi, e tanto vale stare a letto. Poi sono andato in farmacia, pigliare le medicine residue, poi al market a prendere croccantini per gatti, il latte, tutto il resto ce l'abbiamo già, siamo a posto. Vabbè, un mortuorio, tutto chiuso, anche bar, tutto, solo farmacie alimentari. Stamattina è arrivata la postina, ho visto, i postini ancora stanno girando. Comunque devo dire, Antonio, che con la mascherina che sto usando io, è un caldo, ma un caldo, è un fattore 3, FFP3. C'è anche la valvola di ispirazione per aiutare a buttare fuori l'aria meglio, ma è calda, ti fa il naso, la bocca rossa dal caldo, è una cosa, ci muori dentro. Bella quella mascherina. Sì, ma è calda, è un caldo boia, cioè non è una mascherina chirurgica, capito? Filtra meglio, ma grazie a Dio è, ti dà un senso di oppressione. Se sei claustrofobico, i claustrofobici manco ne possono mettere, li viene l'affanno, gli viene. Guarda, mi sono dimenticato di prendermi quella mascherina e mettevano a Giampiero. Qua c'è i tubi, ce n'è presente che vengono agganciati alla macchina. Avevo preso una di quelle e avevo messo un tappo con un filtro e sei uscito con quella. Ehi, Antonello, sai che il virus comunque è mutato, adesso si trasmette anche via etere, via radio. Via cappettere, sì, cazzo, via etere. Quindi mettete la mascherina agli altoparlanti dei baracchini e anche al microfono se possibile. Sì, io già voglio vedere quelli che vanno la notte lì a cercare il sesso, cosa fanno, se si mettono la prolunga. Questo è il periodo buono per cercare il sesso. Così se non ti pigli una malattia, ti pigli una, te ne prendi un'altra, mamma mia. Quindi la serata è lunga, forza miseria. Io mi sto dando un po' la TV, quando ieri c'era un film peraltro che mi sono perso, e parlava di un uomo su Marte, non so, sopravvissuto su Marte, una cosa del genere. Però me ne sono accorto alle 10:15, quindi avevo perso già un'ora e come non guardarne, ma doveva essere interessante. Sì, l'ho visto anch'io un pezzo di notte, quindi figurati. È diventata Simona qui di... Hai guardato in camera da letto? Ah, rientrata, ascolta, sta meglio, sì. Sì, sta meglio. È in quarantena anche lì, naturalmente. Non può uscire di casa. Però già cammina. Quello... facendo le passeggiate tutti i giorni, dentro a casa. Faccio piano piano. Ehi, c'è su che periodo strano. Vabbè, già fra riprendi, dai, vabbè, presto ancora, poi dopo entrerà gente, presumo, a meno che non abbiamo paura pure di rimodulare il baracchino. Chiedervi se vi è arrivata un messaggio di testo da questo Omnia non so cosa, sanità, vi risulta? Oh no, a me niente, lo lascio aperto, andava a fregare le persone, capito? Allora, per sì, non rispondere nemmeno. Allora leggo il testo, è da Omnisource, e non so chi sia. Buongiorno, per garantirle i servizi previsti dal suo programma, si informi tempestivamente in caso di sintomi influenzali o febbre 37,5 e oltre, Italia Assistenza. Mi sente Omnisource, però ho idea, dice il suo piano, ho idea che sia roba attinente a quel piano che faccio io, quegli ormoni che prendo, quelle forniture che mi danno, ecco, forse non è una cosa che mandano a tutti. Ciao Eugene, anche tu ti ha fatto a casa, ma tu puoi lavorare lì Eugene, o tutto fermo? Eia. Va bene, adesso mi tolgo le scarpe perché mi danno caldo, me ne starò in pantofole, in babbucce. Riprendi Antonio. Sì, d'accordo, d'accordo. Mi ha portato dove c'è un sindaco, cazzo che è esaurito, capito? Quindi devo andare a lavorare. Se devo andare solo dal sindaco, se no, voi tutti siamo. Avanti, ciao fra. A dopo già faccio sentire, avanti break. Segna le 9 e la 2.5 dopo grigio. La verità non so se esiste mai a Protore ancora. Se c'è qualcosa tu leggi, se c'è la sede dell'Ari, lì a Protore si avvicina davvero una volta. Al comune mi sembra che era. Se esiste ancora l'associazione degli amatori italiani, ARI. Associazione Radio Amatori Italiani. Una volta c'era la sede dell'ARI lì in quella piazza vicino al comune. In pratica i CB andavano lì e c'erano le armature e ci facevano da cosa, con la patente, capito? Ci facevano da professori, per pigliarti da patente, per diventare amatore. Allora Ricco sta cercando l'ARI, non esiste più lì. Comunque mi dovrò al dottore, non sei a produttore, sì, giusto? Ah, sei qua vicino, sento la Cappuccini, quindi sei vicino a Marco. Ho capito. Tutto a posto, tutto a posto. Avanti il G, è a Sassari l'amico. E mi sto facendo bene. Come ti devo dire, ce l'ho anch'io sopra 3.009. C'è quello, il Connex 4000 e questo che sto usando è l'A87. Figurati. Ho capito. Mi sto facendo bene, cioè già c'è bene comunque come apparecchio. Puoi stavare anche quello. Non è un problema per quello lì. Ci mancherebbe. Io già me lo ricordo, anche il 3009 se l'avevo fatto, se mi sbaglio, avevo aumentato il VAT e l'LC. Mi stai uscendo bene, ti stai usando sta voce. Prova l'B5 dovrebbe uscire bene, anzi dovrebbe essere ancora più forte come radio. Io ho l'MB4 e ce l'ho ancora scatolato, ho pagato 70 euro alla Fusaro. Due mesi prima avevo pagato 40 euro, punto contratto 70. Ho preso e vedete la scatola e fate sigillato ancora. Sì, se c'è la connessione originale non va bene, quella è Midland, devi cambiare connessione, devi mettere quella del 2009. Non va bene allora. Cambia, comunque il microfono dell'MB5 esce bene, meglio dell'MB4 la verità. Avanti Marco. E infatti hai tu salutati che lui non ti sente e basta. ti senza rettifico, ti senza ma a livello di QRM. Eia. Io? Sono qua a Carbonazzi io, di fronte alla rete Carlo Felice. Invece mancherebbe, mi sentivi in basso. Siamo di fronte, linea d'aria. Il Marco già si è sparato, cioè di fronte tu, tu hai aperto Vizzetta. Hai fatto bene, hai fatto veramente bene. Almeno hai conosciuto i pochi cibi che ci sono, perché anche a Sassari. Ah, ho capito. Quindi come hai visto ora che lui stava comprando pezzi per Baracchino, si è presentato in automatico. Ho capito, già va bene. Scusate. Credo fra una settimana. Ero distratto che stavo ascoltando. Ciao Nicola, quell'applicazione della Midland, loro hanno fatto il canale Covid-19 pure, e c'è un bel di gente che sta parlando di tutte queste menate, c'è un po' gente d'Italia, anche uno dal Brasile si è aggiunto, e adesso lo spengo però perché tanto, non si fa altro che parlare di virus, porca miseria, parliamo di altro. Sì, vabbè, c'è 40 canali, MCB, normale, nel senso locale, ma non lo sa nessuno. Se tu vai per forza Italia 1, Italia 2, Italia 3, eccetera, ci sono 40 persone, quando entri mai? Non ce la fai mai. A meno che non ti fai furbo, ti metti i canali spagnoli e parli tranquillamente con gli spagnoli, tutti i giorni e tutte le ore. Basta che entri e ti fanno entrare e parli. Non sono come i siciliani, i napoletani, i romani che fanno questo chiuso e basta. E vabbè, ce l'ho anche io quell'applicazione, Midland CB Talk. Basta parlare da 1 a 40 e sei in pratica locale. Io uso il wifi per poter parlare, perché se uso il coso, la capa, guarda, me la mangia tutta. Antonè, vuoi provare sul 10 se funziona dopo tanti aggiornamenti? Sì, aspetta, il telefono è così, lo accendo, aspetta 2 secondi, piglio l'altro, perché ce l'ho detto, lo sai, 2 minuti che piglio l'altro, il K9. Eia, ricordati Eugè che comunque a parte i canali nazionali e internazionali puoi lavorare in locale fino a 30 km, come se fosse il raggio di portata di un baracchino. Perché i canali nazionali non riesci a entrare, sono troppi, o non ti fanno entrare, o trovi il solito che si comporta poco bene. Vediamo se Nicola la riconosceva questa, conosceva questa applicazione della Midland, si chiama CB Talk. Vai Nicola. Di più, ma è opzionale, diciamo quel microfono un duplice uso, serve per i baracchini Midland e anche per l'applicazione, cioè se tu premi il PTT, mi pare abbia un PTT doppio, no? Se premi verso l'alto, che ne so, usi il baracchino, se premi verso il basso ti colleghi direttamente all'applicazione che è sullo smartphone che hai in tasca, però è opzionale, tu basta che hai uno smartphone e puoi usare l'applicazione. Però il bello è niente antenne da tarare, niente concessioni da pagare, la qualità audio è ottima, è come dire, in realtà è più comodo, te lo porti dove vuoi, anche al bagno, capito? Certo, non è radio, però noi tutti l'abbiamo provata più o meno, essere comodo è comodo, dai. Certo che un surrogato, diciamo, di positivo ha che volendo, sei un amico che ha bisogno di comunicare o vuole passare una serata, soprattutto questi giorni bisogna stare ai domiciliari, no? Forzati, gli dai il nome dell'applicazione, la scarica, la installa, la prova. Capito, mentre per il baracchino dovrebbe andare a comprarlo, piazzare antenne, tarare antenne, una cosa più immediata. C'è qualcuno a Porto Torres, credo che sia Eugenio, sta girando i canali. Eugenio, tu sei? Sì, per adesso sono solo. Sì. Quanto anello? A me, ah no, è in alto. Uta, An, and Eden Red Company, no, è una pubblicità, Antone, non ti preoccupare. E c'è anche Eugenio, aspetta, ti chiamo in diretta, mi? Nico, senti, attenzione, Eugenio, il genio, fai un passaggio, K. Ehi, hey, mi sentite? Ci arrivo? voglia, hai sentito, Nico? Per esempio, in questo caso, che tu hai il portatile, ti potresti sentire con Eugenio che ha prodotto, Orles, anzi, fino al Ghero è la, diciamo, il raggio d'azione. Allora, CB, Talk, Charlie, Bravo, Talk, Tango, Alfa, Lima, Kilo. No, ripeti, Nicola. No, assolutamente non obbligatorio. Tu premi il tasto e parli, poi rilasci e senti gli altri. Va configurato all'inizio, però il volume soprattutto va aggiustato all'inizio. Ok. Ci confermo, allora in questo caso bisogna mettere, allora a sinistra c'è una levetta chiamata CH o Group. Se metti Group sono i gruppi nazionali e internazionali. Se metti CH vai nella modalità 30 km massimo. Lui se ne accorge in base al GPS, perché il GPS te lo fa attivare, cap. No, ho capito. Sempre parolacce, Antonello, dunque parli su o giù. Vai, Antonello. Ma cosa tu stai a parlare? C'è tu all'aria? Sì. Ti sei già dove sei? Yeah, va bene, dai. È una curiosità mia vedere se entrava qualcun altro. Magari ti è in ascolto, vediamo. Io mi tutto ma comunque mi lancio di Park, perché per il Park, boh. C'è anche cosa, c'è anche quello per le moto. Per le moto? Ah sì. E adesso controllo. Comunque Midland CB Talk, applicazione gratuita. E Nicola, ti volevo dire che praticamente se tu usi il microfonino, la portata dei canali locali aumenta fino a 100 km, ma quello non... Eia, Eugenio. Eia. Sì, perché sai cos'è? Lo schermo va lasciato acceso, poi il GPS assorbe, e ciuccia la batteria, come applicazione. Infatti, vabbè, io ce l'avevo al 95% la batteria. Va bene. Senti, Marco, aspetta. Tornare a chi ti ha fatto la casa del suo canale di Costa Matteo, Ehi, volume è troppo alto comunque. Ok, sì, comunque c'è la batteria, quindi non è che la puoi usare ore e ore e ore. Ma ok, non si accarica. Ok, comunque sì, sui canali locali non c'è mai nessuno, non viene usato. Non viene usato. Già entra poca gente al baracchino, se in più si usa l'applicazione, meno ancora nei centri. Vai Nicola. Talghero in 27 modula, prima era più assiduo, c'è Valerio, c'è Roberto che per ora di amatore magari fa più attività amatoriale, e chi altri c'è Talghero, Antonio? Sì, c'è altri tre se non ricordo male, ma poi sono stati tutti. Ma c'è adesso su CBT che l'ascolto, sai quanti amatori CB ci sono a notte? L'altro io mi sono visitato con un brasiliano e sono entrati tutti, mi erano 40, tutti in fila. Cazzo, ha detto, non ho fatto niente a questo, gli ho detto, e mi gira le balle, fregatene, mandalo a fanculo, gli facevo, mandalo a fanculo. Che ti aspetta quello che gli faccio, gli ho detto. Dopo 4 giorni lo pigliavo, cazzo, mi parlava lui, ha detto, l'abortante mi ha messo in cosa, in bellissima ha messo. Poi ci ho messo io, ho lasciato passare 4-5 giorni, quando ho visto che l'ha tolta, ci ho messo in blacklist a lui, così era fottuto. Che io sappia era il 12, vero Antonio? Solo che non modulano più, cioè non... prima entrava in ruota anche Roberto, ma anche Roberto, ma soprattutto Valeria entrava in ruota un anno fa, un anno e mezzo fa, adesso non sta più entrando nessuno. No, non sta più entrando nessuno, a meno che voi in TMR qualcuno entra ogni tanto. E sul canale 7 in TMR, e invece 27 sul 12. Capito? Ma ogni tanto non è che andiamo sempre, la verità, non c'è questo granché di traffico adesso. Cosa vuoi che dica? Se fai fare la scaccia da sassa, almeno qualcuno ci sarà ogni tanto. Ho capito. C'è gente anche sul 23, non è quello il problema. Là c'è qualcuno che ci fa compagnia, va di fischio. Ah, ti ho svegliato, però beh, Sì, mi hai tutto svegliato, via. Beh, allora sei a casa, quindi, adesso non mi chiedi anche tu? No, io sono uscito a fare la spesa, sono andato. Sono andato stamattina a fare la spesa alla una, con Giovanna. Dopo una mezz'oretta che ero lì girando i pepperi così, è incominciato questo mal di testa forte, le gambe molli, e mi giro ora c'è le fave fresche, c'ero, a giugare i beni, il cavello e tutto, me ne sono uscito. Bravo, che fatto. Eia, ti sto dicendo, quando sono arrivato fuori, è stato quasi 10 minuti, guarda, prima sventiare normale, come se avevo avuto una bella pettina, perché se no non ce la facevo, mi tremavano le gambe. Con Marco, poi c'è uno Eugenio, un altro amico di Cappuccini che non mi ricordo adesso il nome, non mi viene in mente, comunque devo andare avanti l'amico di Cappuccini che non mi ricordo il nome. Lupo grigio, ciao Gianni, saluto anche a te. Lupo grigio comunque. Ciao Lupo grigio, ciao Pompulio e ciao anche Costruttore, e Marco te lo sei dimenticato. Non l'ho sentito, ciao. chiamo a un raccolto. Ciao Gian, ieri avevamo accennato e poi vabbè hanno dichiarato la pandemia a mezza serata di questa cosa dell'antenna. Se l'avessimo fatta magari un giorno prima, adesso mi pare che forse sanzionano pure chi è in girella, salvo che non sia farmacia o alimentari, però non ho avuto la conferma. Niente sai. Aspettiamo, dai, ci vuole un permesso per quando noi ci fa la spesa, quando ci fa il carico, ci vuole prima era solo per cambiare la comune a comune, adesso dice che ci vuole anche per andare in volcano. Che palle. Quindi domenica non posso nemmeno andare a Platamona a farmi la passeggiata. Tanto è deserto, il virus non è troppo. Oh, oggi poi sono uscito con la giacca sottile per fare due commissioni, c'avevo questo caldo. Poi sono tornato a casa, ho controllato il termometro esterno e all'ombra, nella mia via all'ombra c'erano 18 gradi, ma una cosa allucinante per questa stagione. Sì, sì, no, perché ma non sono la stagione vera, è proprio no, per andare in farmacia e al market no, scritta no, non so se ci sia scritta anche per, io sono andato e boh, tanto c'avevo le ricette in mano, spero che valga come giustificazione, siamo a posto, possiamo anche starcene in casa una settimana, cibo c'è, acqua c'è, insomma. Io ho fatto già tre volte la spesa e di nuovo tutto così. Ah, è da te? Rimane da te? Sì, sta dormendo qua. Ma Marco Lino o Marco l'altro? No, Marco Lino, così. E quindi anche lui sarà spallato perché non si può uscire con gli amici, nulla. È un deserto. Nemmeno i pilloi ci sono in giro. Per fortuna c'è il computer, si sente come si vede la computer, che stanno scattando tutta la sera, vedete il macello. Meno male, perché sennò se non ci fosse più il computer qua. Prima c'è tutto un pomeriggio, mi sono vista la notte. Sì, anch'io oggi sono stato scattato tutto il giorno, che è grande rottura di balle. Ciao. Sì, praticamente è una grande rottura di balle proprio. Ciao, buonasera a tutti. Credetemi che è una grande rottura di balle. Ok. Io ho degli impegni importantissimi di lavoro, non mi posso spostare, mi sono già rotto le palle. No, oh, perché ti puoi spostare, facevo la certificazione e se è un motivo valido di lavoro puoi spostarti. Motivo valido di lavoro? Non vado a lavorare, faccio quattro cantieri da seguire, da una parte all'altra, l'altro giorno per poco non riesco a rientrare da Olbia. Bravi da vai, mi sono rotto le palle. Ciao, ok. Io lavoro per hobby, Eugenio, io lavoro per hobby, hai capito? Come te? Allora, sei tutta la via grattate le balle a casa, non sei tutta la via grattate le balle a casa, a 60 anni. A me piace lavorare e quindi continuo a lavorare fino a quando ce la faccio. Non penso di rubare niente a nessuno. Vabbè, comunque, ripeto, ribadisco una grande rottura di palle. Vabbè, tutti parchiusi, non ti puoi prendere un caffè, non puoi fare niente. Da tutte le parti c'è farmacia, farmacia, come parliamo, da tutte le parti devi fare la fila. Cazzo, ma dobbiamo tornare in guerra e non c'è niente da temere, niente da preoccuparsi. Non ho capito, Sassari, perché sono diventati tutti pazzi. Però che non c'è niente da temere bisognerebbe dirlo a quelli che sono morti fino adesso, anche a loro magari gli hanno detto lo stesso, e gente ne è morta, Claudio, peccato. Ma me stai dicendo? Vai, buon cuore. Ciao, buonasera a tutti comunque, perché non ho salutato, vabbè, comunque, è una rottura di scatole, in gergo meno porcaccione, credetemi. siamo tutti a casa, anche mia figlia a casa, il bar è chiuso, cioè, ma come si fa? Come si fa a mettere la gente a casa così, gente che è abituata a lavorare, a uscire alle 5 del mattino tutti i santi giorni? Ma non esiste più. Io sto così bene a casa a grattarmi le palle, per me è il mio ambiente. Ma tu c'è una vita che ti gratti le palle, Marco, quindi per te la quarantena può essere anche la sessantena. Ma chi è abituato a lavorare, capito? Chi è abituato a lavorare, sottolineo, chi è abituato a lavorare, è una rottura di palle. Lo so, sì, ma poi sembra una città bombardata, è una cosa surreale pure, surreale. Una cosa mai vista, non mi aspettavo a questi livelli. Vabbè, purtroppo la gente è comunque meglio avere un eccesso di prudenza che non prenderla sotto gamba. Almeno questo è il mio pensiero. Vai, Eugenio. Immaginati che ci deve stare per forza. Ci deve stare per forza, senza tutte le conseguenze, senza tutte le restrizioni che ci sono, nel senso che sono perdite, grandi, grandi perdite. Ci sono 8 persone a casa nel mio settore, ci sono tante perdite, tante cose che non vanno bene, secondo me. Poi il governo ha deciso così e va bene così, però non c'era bisogno di fare tutte queste cose. Si tenevano le attività aperte con delle cautele, con dei ripristini di decreti fatti in una certa maniera, e si doveva seguire quello. Non puoi fare una chiusura totale di tutte le attività, ma stai scherzando, non puoi comprare materiale, cioè io sono incasinato perso, vabbè, riprendi già. Io sono a fare che ce l'hanno fatta, non ci si sta fatta, meglio aspettare 15 giorni che passi tutto piuttosto che aprire e fare poi che la cosa può finire. L'hanno fatto perché è necessario fare una cosa del genere, bisogna solo dare retta a chi dà le disposizioni, bisogna metterci in mente quello lì. Io vabbè sono costretto a stare a casa perché già lo sai, sono stato operato, per forza ci devo stare, anche se faccio ginnastica, cosa, però non posso niente, anche perché mi trovo a debole, adesso mi piace giù. Il tuo problema non è altro, Gianni, te lo dico con molta sincerità, non far venire nessuno a casa tua, nessuno, e tu non andare a casa di nessuno, ma che non vai a casa di tua moglie, di tuo figlio, eccetera, eccetera, non far venire nessuno a casa, perché nella tua situazione può essere pericoloso, soprattutto chi ha patologie, questo è scritto, decretato e detto tutti i santi giorni, quindi... Capito? Stai molto attento, infatti avevamo deciso di venire a prendere, a fare quell'operazione, ma assolutamente non si può fare niente. Io oltre a quelle ho tantissime cose da fare, tantissime, eppure sono fermo, sono qua a casa, secco e pesto, facendo naturalmente, al computer, insomma, facendo, però non sono abituato a stare a casa e quindi mi sto veramente, non lo dico, vabbè. Avanti a TikTok. Ciao Nicola, comunque buonasera, ciao anche a Luca, ciao a tutti. No, quello che sta parlando adesso abita nella 131, praticamente all'ingresso di Porto Torres. Quello è un altro, tra l'altro è anche la rimatore quello lì. Non si vede l'antenna di Eugenio, Nico, no, è all'interno praticamente dell'ingresso di Polo Torres. Quella che tu vedi non so manco chi sia, perché è da tempo io che non guardo la strada di quanto sono in fretta fuori e ci metto a guardare le antenne. Non lo so chi è, forse lo sa Gianni, l'ingresso di Polo Torres, chi c'è l'ingresso di Polo Torres? No, è Sassa, Nico, chi c'è già l'ingresso di Polo Torres con questa antenna storta? C'è un'antenna dove c'è me. Sopra mele, tu sai che di chi è quell'antenna ancora? Quella non è Grand Prix, grande, quella la più grande che c'era. Quella era di Dimone, si chiamava Dimone, e modulava sempre da lì. E nonché Piero Mele, capito? Piero Mele, il titolare della Mercedes. prima aveva solo la Fiat lì, Auto Club. Quella era di Piero Mere, Timone si chiamava. Capito? All'ingresso di Porto Rese in via Sassi, proprio entrando a sinistra. Quella stai dicendo tu, Nicola. Sì. Oggi cosa stai dicendo? Aspetta Gianni, cosa hai detto? Quella era l'Auto Club, lì è nato Piero Mele, Salvatore Mele, signor Michelino Mele, che è ancora vivo, ok? E signor Luciano Mele, tutte e quattro fratelli hanno iniziato lì in via Sassari e quell'antenna c'è da una vita, da dove? A fianco abitava la buona Anima e Carlo Titano, ok? Quindi c'è una vita perché ne ho 60 di anni, e avevo esattamente 17 anni, capito? Perché ho lavorato anche lì all'autoclub proprio con il signor Piero e il signor Salvatore Mele, quell'antenna c'è stata, lui si chiamava Timone, no, tu l'hai conosciuto dall'altra parte, a destra scendendo, prima di essere a destra scendendo abitava a sinistra, scendendo esattamente proprio sopra il bar che c'era lì, c'è un bar proprio lì prima di Ernesto Toccai, ok? Lì c'era un bar, o c'è o c'era, non lo so, di Giovanni, che non mi ricordo il cognome, tu. Carlo abitava lì, poi lì gli aveva conosciuto e si è trasferito a destra scendendo prima di, proprio o prima o dopo dove c'era la pizzeria di cose, come si chiama, di su Tossico che muore, e lì è andato a finire dopo, quando vabbè c'è stata una situazione particolare, da lì dalla giro è andato a abitare in Viale delle Vigne, nello stesso palazzo dove abita ancora penso Angelo Asso, non ho capito, e da lì se n'è andato, non è andato via Sassi dal Lupo, Carlo è morto che abitava in Viale delle Vigne, ok, avanti Gianni, cosa stavi dicendo? Volevo chiedere una cosa, se sapevi il codice della camionale, se quello che ce l'ha detto era figlio di Consolano. Quello della camionale era il figlio di? Quello che uno è morto e l'altro di dietro è di pizza e fotografo, se è il figlio di Consolano, si chiama Perugas. Ah, perché c'è un Perugas e figlio di Consolano che fa il pizza. Quello che è morto è Shaw. No, l'altro che c'era dietro. Ah, no, abita all'ingresso di Portose, ma mi pare che abita nella zona di Lioni, così è oggi. Sì, c'è qualcuno che chiama, sì, basso il radio, chi è? Fortuna, mi pare, vabbè che per il coronavirus in giro, mi pare molto grande di 30 la Dumba. No, Fortuna, non è radio. Sì, il segnale sei in off, ma il radio non ne hai. Adesso ci sei, Fortunato, il radio. Sì. Ah, ciao, Fortunato, buonasera. Complimenti, Santiago 9 arrivi dalla Spuntas, col tuo antennino. Santiago 9, Fortunato. Adesso la radio va bene. Ti saluta Eugenio da Porto Torres, se non la copri? Se pure vai ripati là che è piroce, tu lo dovresti sentire. Aveva detto questo Claudio che io mi ricordo sempre, fortunato, mi ricordo sempre che così vedi. Stai andando sparendo, fortuna, ma cosa c'hai? Il microfono quelli radiogetta? Sì, già funziona, ma ogni tanto la modulazione non è un granché, capito? Dai, faccio girare fortuna, se no parliamo sempre noi. Marco, riprendi tu, vai per Nicola, fate girare, dai, sono qua comunque. Io sono in cucina che sto facendo da mangiare, quindi rimango all'ascolto. Nicola, ci sei? Riprendi. Anche le formiche ci sono rintanate. C'è un'intennina c'è. No, non è, non sei in camion, fortuna, a casa sì. È a casa dal poggiolo, nel poggiolo ho messo un'antennina, capito? E oggi è per quello che non ti sente. No, ti sente. Non ti accoppi. sempre riccio li stai facendo nel petto, o te li hai tutti rasati? Oggiamo, ma tu a Fortunato mai l'hai visto a petto nudo, quando era ragazzo? No, è andata a Fortunato. A Fortunato non mi ricordo di averlo mai conosciuto. L'ho sempre sentito in radio, ma in ufficiale no, non mi ricordo di averlo mai conosciuto. È un omone, Lei è più alto di te. Adesso è diventato vecchio, ma prima per salire nel trattore ci voleva la scala, capito? Ci voleva la scala. Vero Fortunato? Adesso di sì. Fortunato, ma viaggiando state voi, sì. Aspetta, io forse si è spostato, c'è il microfono che non funzionava. Sì. Lui dove piazzare. Allora già ruota fra poco. Grazie di euro. Vai Nicola di Bari. Dalla sporcizia che c'è di questi cacchi di scena. L'antenna adesso in settimana la abbassiamo, la devo tutta pulire e lucidare di nuovo, perché è tutta sporca dalla sporcizia degli storni. Non tanto dai corpi, ma dagli storni, capite? Lo so, sì, non se ne sentono, non se ne vedono. Vabbè, meglio così, un'altra rottura di balle in meno. E beh, ma cosa fa? Vabbè, non è che fanno le direttive, fanno schifo, sono i bracci e il buco, è una cosa allucinante, tutto binghinoso, tutto indietro, adesso Massimiliano, se non lavora a fine settimana ci dedichiamo a fare queste cose, prima da me e poi da lui, è un casino, se non c'è tante antenne sul tetto è un casino, per carità. Va bene ragazzi, dai, che qua c'è un po' di movimento, asciuga capelli, balla e poi va, non capisco un cacchio. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Gianni, dai, fai tu il capomaglia, a dopo. Sì, ci sentiamo dopo, allora. Vai pure tranquillo, stai all'ascolto di quest'area, entra con noi. Avanti, ho fatto, ripeti tu e fai girare, perché sei un piacere. Io ci... Era di spalle, capito? Tu gli hai dato di spalle. Lui ha messo l'antenna verso il sasso, l'ha buttata verso il sasso, capito? Quindi dietro quindi va male. E questa gente mi ha lasciato un po' troppo, non so. Gli sci ti aiutano, ma non è che si ti aiutano. C'era anche Alice, Alice ancora ci si. Alice non riprende. Ok, siamo appena a terra e va perfettamente bene. Ciao Lomomicio, ci sentiamo dopo, dai. Avanti che rimane, c'è Eugenio, Gianni e poi chi c'è? Avanti, poi dichiarare che si come mi sono sparito. Passa la gamba nel dopo, oggi mi sta scendendo male, non si capisce cosa dice. Ma adesso va bene, adesso andava bene. E allora oggi la situazione ha fatto le scuole. Ma dice che stanno passando anche le macchine per avvisare di non uscire da casa, ho visto sul frigo. È un casino, e voi come state la fanno con la maschera? Ma non se ne trovo. Ma ho cercato di fare il vaccino se c'è la maschera. Vabbè, così. Ma io sono andato a quelli di mio amici, non mi metto, non ti finisco. La farmacista mi ha detto che le ho ordinate ma non le sono arrivate. Mi dice che io teoricamente le ho ordinate ma praticamente non sono arrivate. Poi, vabbè, è un cristia. Che c'è Eugenio, sì. Eugenio, te lo senti allora? Ma non per il contorno, l'hanno che fanno, non sono sentito, non ho più sentito per questo. Non cazzo che fa, non ho più visto le sentite, io non sto uscendo da tutto, si chiama operato, scappa, fermo, no, non mi scendo, mi si è consumata la cartilagine, mi hanno messo la frutta, pure a tirare per l'aria, rimani dentro, se non faccio città. Piano piano si può fare. Ok. E adesso che c'è il virus non si fa lavorare, da fare. Come dopo lo scuola non si esce, la vedo non uscire. Meglio anche io non posso salire, se pezzo, calcio di cura. Aspettiamo un po' e lo faremo un altro momento. Non è tutto bloccato, cazzo, non dobbiamo lavorarci tutto. È che c'ho la scala, capito? Il problema è quello, che se vengono catapultati a pigliare di Calabria e se tu dica che casino non si apre di tutti. Certo. E no, al limite già passerà. Comunque non ho detto anche gli artistici, io devo uscire per dire, questa è la ragione, l'ho detto solo qui. E non so che io possa uscire, sono operato da poco, come faccio a uscire? Lo so, là. E già per l'arraggio, ma fanno gli amici, però non ho completo. Anche le donne brutte non possono uscire, Guarda, ciao Gianni, cosa? Anche le donne brutte non possono uscire, Buonasera. Sto scherzando, buonasera. Ciao Gianni. Tra poco ci serve cavalcare. Poi quando finiscono il mano, quando finisce il mano, poi c'è più come fare. Bravo Luca, quindi ciao Ricchio, allenato. Ciao Gianni, ciao Luca, ciao gli amici di Porto Torres. Ciao, sono per quello. Io mi sono sbagliato perché la torre carte non ho ascoltato bene, capito? Ho la torre carte che c'è già un piano, capito? C'è già un piano anche io. Credo di sentirlo. Avanti Eugenio, mi ascolti, buonasera. Franco qui dalla zona monte molto basso, quasi terra a terra. Capo, anche io ti ascolto di radio, il segnale si muove appena, ma questo smitter non è affidabile. Però la radio, se non ho disturbi, ti ascolto bene. Ok, avanti ancora per riprendere. Ma per non so Luca, ce l'ha la mano, è a casa della ragazza adesso, da qui. Luca, adesso Eugenio di mezzo te l'antena come ci deve. Chi è che ha sbagliato la strada? Lo so che tanti, un po' si è sbagliato la strada. Qualcosa a casa di Luca era, la casa di... vabbè. Da dove sta modulando Luca? Campagna. E allora fra i seminoni. Oh, mia. Bisogna organizzare qualche corona a parte, qualche cosa, sennò qui ci ammazziamo. E noi io do una cosa all'altra, che è più facile. Io poi non posso uscire perché ne hanno operato, sono bloccato. Ho sentito, hai avuto un intervento al ferro, ma parziale o totale? Non c'è stato al ferro, con una parte, una bella parte, sì. Dopo la testa del ferro è attiata, consumata. Quindi parziale, come l'ha fatta mia suocera l'ha fatta a Ozzieri, praticamente le hanno rimesso la testa del femore nuova, là. Invece la parte che è attaccata al bacino, quella è rimasta la vecchia, però ha migliorato parecchio, poverino, trascinava la gamba che non poteva stare. Ma cammina bene adesso? Non benissimo, però rispetto a prima che camminava, diciamo, una mano sul tavolo, l'altra sul piano di cucina. Ecco, vabbè. No, ma io adesso sto già camminando, sto facendo ginnastica, sto camminando anche sulla stampella. Solo che ho fortuna. Ecco, vabbè, tu sei anche più giovane, quindi dovete recuperare più in fretta. E poi chi c'è rimasto poi in frequenza? Siamo io due, Eugenio, Luca, e c'è la Marco Condor che stava cucinando. Non so cosa ti ha preparato, adesso lo chiamiamo, vediamo un po' cosa ci ha preparato. Dove c'è la figa? Oh. Fateci un break qui. Allora. Paura che si ecco. Eh beh, Nataloide, eh beh, Franco. Ciao Marco. Caspita, tutti entrando stanno, eh? C'è voluta un'epidemia per farvi entrare al baracchino. Una pandemia c'è voluta. E davvero mi. C'era anche Fortunato, Claudio, gente che magari non è entrata da un po'. Così è, va bene. Dai, che sto cuocendo la pizza, riprendete. Scusate, una massa. Eia. No, da casa con un antennino. Ma state parlando sempre e solo in due. Aspetta, vai Luca, Luca, vai tu. Vai Eugenio. Natali, lo senti Eugenio? Dal QRM, incomprensibile. Chissà dove sta modulando. Io sono sempre qua, comunque, dai. Ti ascolto Paolo, sto terminando una cosetta, volevo salutare a Franco e a Natalino che sono entrati adesso. Ti lanciate anche per Nicola. E oggi sei sempre sopra modulando a Luca. Rilassati. Ciao, ciao. Ti lanciate per Nicola. Nicola, riprendi, dai, ti rilancio io. Sai che sei allontanato, ciao Cran. Nicola, hai sceso giù. L'hanno chiamato, hai sceso giù. Adesso non so se è per nome. Ho visto una foto che mi ha mandato Ilaria. Vedi, sto fuggendo dal coronavirus, va sì. Dai, io vi ascolto però ragazzi, che mi preparo così mi faccio una passeggiatina qua dentro il giardino, all'interno del complesso qua di casa, col cane. Poi me ne salgo e mi si sovrappuccio. Ciao Fra, salutami Anna. Sentiamo dopo, riprendi Fra. Capa anche tu. Guarda, tutto bene, un abbraccio circolare a tutti lì. Ok, buona passeggiata. Avanti Luca. Mi sono uscito poco fa a prendere un po' d'acqua e basta, giusto minimo indispensabile. Almeno la sera rimaniamo a casa, la mattina poi ancora stiamo lavorando, grazie a Dio, tra virgolette, dai. Anche quello sta diventando un problema, anche quello non dovrà trovarle. Gianni, e tu? Quindi sei operato da poco, così? Sì. Sto riabilitando da solo adesso. Intanto piano, cammino, e faccio tutto da solo. Intanto questa fisioterapista, no? Quindi mi sa da gara, e non è più. È mandata dalla sede, è fatta la domanda, ci siamo andati a portare c'è un po' di paura anche da parte loro. Quindi adesso c'hai due stampelle, c'hai? Ne ho due, poi a volte cambiano con una, a volte cambiano senza, sto alternando, dai. Ti avrà dato qualcosa, cioè, delle indicazioni da fare, quindi cerca di attenerti a queste indicazioni, dai. Certo che me le ha dato, signore. Studiate a memoria, se c'è questo qua. So come girarmi, so come... girarmi non dico girare, ecco. Ci vuole la ciambella che si deve fare. Io adesso sono senza ciambella. Sto già facendo progressi. Sto in piedi. I primi giorni sto in piedi. Non vedo a cappuccino, sto in piedi. Guarda, sto così male. Piano piano, sono cose che non devi avere fretta. Piano piano poi già il tessuto si deve riprendere. Hanno fatto un bel taglio sicuramente lì nella fiancata, dai. E lì hanno aperto l'epidermide, se l'hanno infatti al carne, poi al muscolo, l'hanno tagliato tutto e se l'hanno arrivato all'osso. E lo so, dai. Passerà anche questa, fai girare, dai. A parte che tocca, c'è un pomeriggio, c'è rientrato, un pomeriggio, a parte ci sei, un pomeriggio è buono. Eugenio se n'è andato, e a chi tocca, chi c'è ancora, va, c'è tutta, va. Dice qua. qui l'acqua ce l'hai? Piano di armato, certo, per questo di lavoro ce l'hai, però no. Finché non mi serve ancora non l'ho toccata, allora, perché ancora stiamo lavorando qui nel comune di Sassari. Ma se uno sta nel comune di Sassari non c'è bisogno di aperto. Ma non lo so, lì c'è scritto gli spostamenti, da dove stai arrivando, se sei in transito e dove stai andando. Non parla però da un comune all'altro, quindi in teoria dove sei avvero, se ti beccano fuori vogliono sapere dove stai andando, capito? E ma quello che non ci ho stampati, quindi non ne ho fatto. Io quando mando qui da portare in scala, lo devo fare a mano, lo devo fare. Dovete averla, vabbè, non so, non riesci a scaricarla. Non lo so, te la puoi compilare, ma neanche con cellulare, perché non la puoi compilare con cellulare. Gianni, ce l'hai la stampante? Però se ti vuole i moduli li vedo io, li ho caricati e stampati. Bisogna avere la autocertificazione quando va a portare il cane. Capito? Perché tu puoi andare solo nel comune di residenza, è nelle vicinanze di casa tua, non che puoi andare anche a Piazza Lesini, no? Beh, però se ci fosse un'unica farmacia aperta, che so, sabato sera, penso che possa andare per motivi di medicine. E senza l'autocertificazione non si può, però se tu c'è l'autocertificazione scrivi che per motivi che devi andare in farmacia, puoi andare, no? Basta che lo scrivi. Domanda, ma il modulo vale lo stesso modulo per quando si va fuori dai comuni? No, bisogna farne un altro, vale solo per quella volta che ti fermano e boom. Da voi se vuoi mi metto in breve tu ne devi fare un altro. Se tu devi spostarti da un altro comune devi avere la necessità di andare in quel stesso comune a fare un qualcosa, non lo so. Non hai necessità, non ci puoi andare. Ah, peccato, niente Platamona domenica, peccato. Franco California è abilitato se ne hanno fatti pure andare su, non l'hanno fatti tra. Ehi, ma io sto parlando all'interno di Sassari, il modulo è necessario al momento attualmente o non è necessario? Basta la ricetta che c'è in mano, che ne so, oppure fare spese? Sì, devi avere il modulo e la carta d'identità, perché ti devono identificare. Sì, buona sera a tutti. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Sì, sì, Marco, sai, Marco, Gianni, l'altro, oh, ma... no, stavo dicendo, sì, ci vuole il certificato, e se devi andare in un negozio per fare degli acquisti, devi anche conservare gli scontrini, perché potrebbero, naturalmente se ti hanno fermato, potrebbero anche dopo un giorno o due giorni verificare se effettivamente tu sei andato in quel negozio a fare la spesa e dunque devi presentare gli scontrini. Non so se l'avete detto, questo è l'ultimo decreto di ieri, Eia, ciao Giulio, che palle, guarda, uno stato di polizia vero e proprio, dai. Io li ho scontrini, li ho già buttati nella spesa. Delle medicine no che li devo detrarre. Vai Natalì. Purtroppo si deve fare, siedimi in casa, se non dovete uscire per cose urgenti o per necessità, statevi a casa, che è una cosa seria, non è uno scherzo. Vengo a trovarti Natalì. C'ho già la tosse e febbre. Per quanto riguarda le medicine, ci sono i fattorini della farmacia che ti portano un medicinale direttamente a casa. Se tu devi andare in farmacia, nessuno te lo può impedire, l'importante è che abbi l'autocertificazione, che dici che hai necessità di prendere queste medicine. Bisogna portarti anche i documenti, perché ti devono identificare chi sei e chi non sei. Anche se vai a piedi, ci vuole l'autocertificazione. fiamma, eccetera, che non ha modo di andare da solo o in farmacia. La farmacia ti manda il fattorino sul telefono, ti manda il fattorino con le medicine direttamente a casa. Guarda, io lo so perché stamattina abbiamo ricevuto noi qua a casa, dunque è una cosa abbastanza fattibilissima. Sì, Gianni, per quanto riguarda il certificato, guarda che ti ho mandato su WhatsApp, ti ho mandato il certificato, come deve essere scritto. Lo puoi fare anche a mano, tu ricopi quello che c'è scritto a mano e dopodiché lo fini chiaramente, porti il documento come se dicendo la mio e puoi uscire tranquillamente. Ok? Ma io non devo uscire adesso. È per Marco, perché Marco non taglia il cane, per quello. Ma guarda, qualsiasi persona che esce verrà bene, non è che devi uscire, devi essere tutto strappato. Non è il certificato, tutto. Va bene, allora ti faccio una buona sera. Abbassa un po' la modulazione, che stai un po' distorcendo. Ok, abbasso. Prova ancora. Prova giù. Sì, stavo abbassando, dai. Stavo abbassando, non cade poco. Ok, avanti così va bene. Manca un po' così di più, per me va bene anche così perché il segnale è buono, è forte, quindi ti ascolto bene. Non so per quelli mai dove non arrivi bene, ma mi sa che siamo tutti in zona. Ok, vabbè, se c'è qualcuno che non mi sente bene, lo dica e prendiamo il risolvere il problema, insomma, avanti, Natalia. Non c'è problema, comunque, sta Gianni, Gianni li mando io. Capito? Manda a Marco tu e già mi dico io che muri, la c'è stampato. Gianni, riprendi? È un attimo, Natalia. Avanti, riprendi tu Marco. Sto mangiando, riprendete pure voi, dai. Beh Giulio, tu come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene, tanto. Va benissimo. Naturalmente la grazia era di molto più continuata, era ancora bene sentito. Quello che mi hanno detto l'ultima volta che sono stato a controllo, tutto qui, tutto a posto. Devo tornare il 2 di aprile, praticamente il giorno prima che pensare questo decreto con certificato eccetera. L'importante è che stiamo andando tutto bene. Volevo dirti una cosa, non so se ci hai visto, diciamo, la sfilata di Carnevale alle Punti. Ma io dovevo andare, ma sono andato il giorno. Perché avevo un problema alla prima, al suo appello, quindi con un po' di nome ho lavorato tutta la serata per sistemare la prima, perché il pelle è purtroppo non lo prendo proprio pulissimo, nonostante che io compro quello più costoso, eccetera, c'è sempre qualche residuo che la fatica si blocca la vite senza fine e non scende più spesso. A quel punto si smonta la base di sopra, vuotare completamente il porta pellet, pulire, attirare con la mattina cenere, la tira povera, quello che dà, e dunque è pure il prezzo del processo. Questo è tutta una serata. Vabbè, pazienza, allora, perché noi avevamo un carro, abbiamo sfilato, abbiamo fatto un carro con degli amici e abbiamo sfilato alle Punti. Purtroppo quella sera è successo quella disgrazia, un po' ha rovinato la festa, purtroppo. Incidenti possono succedere, anche se dispiace tanto, dai. Vediamo un po', Luca, ci sei? Cosa era successo qua? È morta una ragazza di 15 anni, ma che ne aveva? Piccolissima, dai. Ah, l'incidente è morto, ho capito. Infatti lei la sera lì hanno sospeso tutto, cioè a una certa ora hanno tolto la musica. Anche l'indomani la festa è stata fatta solo per i bambini, giustamente, dai. Non si smette mai di Sì, lo conoscevo, cioè mio figlio ha fatto un sacco di anni di scout, anche se non era lì a Santa Maria, l'ha fatto qui a San Vincenzo e a Sacro Cuore, Carlo. E quindi di conseguenza ci conoscevamo un po' tutti, dai, mi dispiace, anche se è grande vuoi tu, però è sempre un grosso dispiacere. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Sta sedando le robe. Però no, mia moglie mi ha chiesto il pacchetto dal telefono, e forse c'era un problema incredibile questa sigla, non so, ieri abbiamo chiamato il tecnico, è venuto per mettere la fibra, stasera non si trovato più il telefono, io la metto. E anche qui stasera un'oretta senza fibra, mio figlio stava lamentando infatti. Gianni, riprendi, l'ho rilanciato Luca ma non ha ripreso, la riprendi Gianni. Ehi, ma ti avevo spiegato la fine del video, che praticamente stanno regalando dei giga in più e stanno per un'altra e sta sotto la fibra. Hanno sciolto la fibra? Sì, con la fibra, sì, con la fibra. Io ho messo la fibra. Ma la fibra, quando l'ho spiegata a tutti, non è... ma usano anche cavo perché hanno fatto una miscela là per il momento, usano fibra con cavo. Sì, a me qua mi arriva su 100 mega, comunque è già tanto perché io sono molto vicino alla centralina, la parte terminale la mia non è fibra ma è in rame e riescono dai 90, 92, 94, qualche volta anche 96, ma è un caso eccezionale perché sono molto vicino alla centrale, solo per quello. Adesso ho fatto una domanda per la l'iperfibra. Quella dovrebbe arrivare fino a computer praticamente, però già 2-3 mesi stiamo sempre rinviando perché ancora non hanno fatto l'infrastruttura con Open Fiber e stiamo aspettando, dai, l'ho fatta con Tiscali, la domanda. Non hanno i vasi. Appunto, per quello che dovete, cioè non la vivo la misma casa per casa, ancora no, ancora non è possibile. E allora ho fatto questo, però diciamo che nel frattempo è migliorata moltissimo, perché prima anziché avere sentito solamente, ho iniziato normale, adesso può essere sulle 70, dipende dalla zona, dove ci sono forse magari non vado una differenza, nonostante che ancora la fibra è metà fibra e metà rame. Ok, avanti Franco. Sì, praticamente la fibra dovrebbe arrivare, non so se hai fatto caso, nelle colonnine telefoniche, quelle che trovi sui bordi delle strade. Ce ne sono certe che hanno il cappuccetto rosso, quella è la fibra. Sì, appunto, ma siccome tutto stata ancora, non è stato trattato come impianto fibra, tutto stata lo stanno ancora facendo, in questa strada ancora non è pronto. L'esempio della strada non l'ho detto io qua, non è pronta, arriva fino a un certo punto, ma poi da vent'anni presto di quella strada, che ha trovato io non arriva con la fibra. E allora in questi giorni, tanto è vero, hanno già tracciato la strada, che dovranno lavorare da un po', per poter passare il campo fibra. Allora, ma adesso questo sì, quando sarà completato tutto l'impianto per tutta la città, e per dove dovrà esserci la fibra, allora la mandano completa direttamente in casa. Ecco come se funziona. Questo mi interno adesso, questo che funziona. Va bene, avanti Marco. Marco, buon appetito. Luca, ci sei? Io sì, ci sono. E Luca? Sai che Luca non c'è, Gianni ci sei, io ho ancora il telefono. No, io ci sono, E ma lo so che dire, perché noi abbiamo preso questo dolore, adesso non mi scopro. Sono un po' così, abbiamo montato. Dove l'hai fatto l'intervento? Sassari? No. Sei trovato bene, sì? Sì, la rimasto così. Ho cominciato a camminare da secondo giorno, non si può dire, non è che mi sento tanto male. Io ho fatto fisioterapia per 20 giorni, poi sono andato a casa, ma è dottorale e bravo, bisogna mandarla subito a casa, perché noi bravo andiamo subito a casa. Sì, ma una volta che la ferita è asciutta, anche drenaggio avevi? No, capito. Se avevi anche drenaggio per i primi giorni? No, niente. Solo 3 quello qua. Era molto. Beh, il dolore. Non mi ricordo se mio socio avesse anche un po' di drenaggio qualche giorno, finché non si è asciugata la ferita, poi anche lui l'hanno mandato subito a casa. Beh, 12 giorni la ferita. 12 giorni l'hanno tolto tutto. Alla grande allora, dai. Sì, diciamo che è andata bene, dai. Bene, perché io mi sono curato bene la glicemia, tutto quanto, sono andato con la glicemia normale e l'ho tenuta sin quando mi hanno operato, anche dopo, sempre è molto importante, no? Quello sì, se ce l'hai andata ti opera. Infatti. Infatti ci sono andato già con la glicemia 99, 98, 99, era sempre buono. Una volta anche a 78, ho fatto che è esagerata, che è andata un po' bassa. Io anche mangio molto a pasta, e quindi a ruota un po' mi sale, ma sempre entro i limiti. Se non c'è di appetito, perché a me piace la pasta, però la mangio solo la domenica, in adesso che c'è due figli a casa, qualche volta stiamo facendo, ma per non lasciare senza lui e qualche cosa la pescata. Ma più che altro lì ci sto facendo, paella, riso con i funghi alla milanese con lo zafferano, il riso mi piace. Ma... No, meglio il riso. Io l'ho fatta, adesso, prima la mangiavo sia a pranzo che a cena, adesso invece faccio solo a pranzo e la sera un secondo, sto cercando di regolarmi così. Avanti Giulio. Ok. Sì, per certo, bisogna regolarsi queste cose, bisogna regolarsi. Chi ha questi problemi, purtroppo bisogna regolarsi. Cosa volevo dire? Ah già, cosa ti hai detto? Una specie di intervento. Forse è qualche pentola che sta entrando nel microfono, niente di particolare, siamo bene con me. Vediamo un po' se riprende Marco. la penso era 90 tonnellate. C'è anche gente che la sta prendendo come una vera e propria fobia, ho sentito, me l'hanno detto al telefono. Oh, Gianni e Giulio. C'è gente che è terrorizzata da questa cosa del virus. Certi hanno paura di certe cose in modo proprio, come dire, ne hanno molta paura, io la prendo più con filosofia. Si fa un minimo di prevenzione, tanto ho detto, se ti devi beccare ti becca, perché non è fattibile. L'unica cosa, vabbè, dai, riprendi Giulio. Ok, quello sì, è vero, quando è corretto potrebbe essere però se ci atteniamo alle regole che ha impartito il governo, anche se tanto balbetta, perché in effetti questo momento balbetta con pensato, non è che dice le cose come effettivamente stanno, e poi dicono le cose per gradi, ogni giorno non sono rimasto davanti a questa situazione, perché questa è una cosa che si vede da un paio di mesi. E loro lo sapevano, perché lo sapevano. Eppure perché, nonostante che la destra glielo stava sempre lamentando, guarda che così e no, e poi alla fine, questo è quello che succede. Ritorniamo alla vigileria, o a tutta la pandemia, eppure in realtà era questa cosa, perché c'è anche in quello è confuso. Pandemia e forse è la stessa cosa, o cambia niente. In pandemia è perché nel gruppo terrestre ci sono paesi che sono infestati, ecco perché pandemia. Comunque Marco, io ho parlato stamattina con l'ufficio personale, l'ho però parlato io, e mi hanno detto che ci sono molte persone a casa, chi perché ha questa fobia, chi perché ci ha preso un po' di febbre e cosa, e sono rimasti complicati a lavorare. Stranamente stamattina è venuta la postina a portare posta ancora, naturalmente ti diceva, dice rimanga pure a casa che glielo firmo io, glielo lascio nella cassetta. Credo che addirittura avessero già sospeso il servizio postale, almeno di cose non urgenti. No, lei te lo chiede, dice glielo firmo io, glielo lascio in cassetta, ho detto certo, non c'è problema. Poi appena uscita dal portone io l'ho ritirata dalla cassetta. E che ha facciato cosa essere a buona la prima? Oggi è carina la postina, capelli corti, sai che mi ricorda, poverina? Mi ricorda quella delle Iene che se l'è portata via il cancro, un'aria toffa. È tipo così, un po' simile, dai. Ce l'hanno salutata che la lo sai, cosa sono finite le Iene, le ragazze che c'erano, ciao Maria. Oh guarda, io da quando ho iniziato a stare male lei, che poi è morta, non ne ho più guardato Iene, no? Così mi ha preso male, non ne ho più guardato. Chissà che è una cosa che ha fatto anche a me, mi ha fatto un po' sorpresa. Speravo che era troppo giovane, quindi era una grande guerriera e metteva coraggio a chi aveva lo stesso male, eccetera, eccetera. Era una persona splendida. Beh, se ne vanno i migliori, però mafiosi, terroristi, ma non si riporta mai il diavolo quelli, non manco il diavolo li vuole. Purtroppo è così. Ma va, è al telefono, Franco è al telefono. Già, Marco, purtroppo è così, lo devo rimanere. No, io è una tradizione che non seguo mai, non seguo mai. E so che a volte cose sono anche interessanti, però io no, però la sua tradizione che non mi interessa, non mi interessa niente. E scusa per esempio, va bene, naturalmente mi piace tutto la ragazza, come è pensato perché non mi piace, e poi la seconda che fa la ragazza. Addirittura lui lo sapeva che doveva morire, da quando incoraggiava la gente ti diceva che passerà, tutto passerà, bisogna lottare, bisogna vivere la vita, e lui sapeva già che doveva morire, perché se no sapeva già di metà di tutto il corpo. E lei è stata fortunata, come tanto. Quello che sta vincendo, sta vincendo lei molte volte, solo che vuole solo fare fortuna, almeno per arrivare a invecchiare. Va, cose che succedono, decisioni, uomini. Hai visto Gianni di Ecosi, come si chiamano? Non sbagliarlo, è Gianni, non si deve mangiare, ma passeggiando per strada. Io ho visto su Facebook, ho visto il filmato, perché adesso non c'è gente, non si sentono disturbati, quindi si sentono molto di più. poi se c'è anche l'inverno, ma ci sono quegli aranci selvatici, si mangiano quella roba lì, cadono dall'albero, magari se li mangiano, quelli hanno piantato tutti quegli aranci selvatici lì a Roma, lì. Quando cadono si rimangiano, mangiano dei cassoletti, ma io quello che mi chiedo è che lì in campagna vicino non ce n'è, come cazzo hanno fatto a arrivare sì? Sono entrato, scusate. Ci ho pensato anch'io già, tu immaginati, dalla periferia sono arrivati al centro Sassari, roba di pizza. Allora, le hanno fermate anche vicino a casa mia, però vicino a casa mia c'è la Pinetta, dove c'è il monumento alla brigata Sassari, eccetera, eccetera, lì in via Prati c'è una grande Pinetta e lì loro ci faticano, in mezzo alla macchia mediterranea. Ne hanno trovato anche quello io morto una volta, che ero bloccato, ma se io ho scritto questo volo, guarda che c'era un cinghiale morto. Quindi ci sono. E a Marco, che ancora non ha detto più, stavamo passeggiando e gli ho detto, e qua ci sono i cinghiali secondo me. Beh, dopo pochi giorni hanno fatto il filmato, i putti stavano mangiando le cassonette, c'era la mamma con tanti cinghiali. Eia, adesso rilancio Franco. Fatto bello trovarlo magari tornando da qualche commissione col buio, a non metterne sotto uno, te lo carichi in macchina, te lo porti in fretta a casa e te lo cucini. Sì, ti faccia la macchina e basta, ci chiede un po' così, la macchina te la spalla, se lo prendi. E poi ci chiede non ti fa nulla, se tu non lo colpisci non ti fa nulla, addirittura sono scesi di spiaggia, ho visto un filmato, sono scesi di spiaggia per gli turisti e gli davano da mangiare, loro stavano in mezzo alla gente, immagina tutto al mare lì. Caspita, bello, vai fra. A proposito di cinghiali, stamattina alle 6 ne ha preso uno che conosco. Lì ce n'era da Usilo, la parte gli ha staccato la macchina, gli è uscita la ruota, ha capottato e di poco non ci lascia le penne lui, Cacchio. Adesso lo pagano, lo sai? Adesso? Adesso lo pagano, se chiama la forestale, fa il verbale, lo pagano. Lì sono scesi sulla strada, c'è un'assicurazione sulla strada che mi paga. Adesso vedremo, poveraccio, un bello spavento, comunque gli ha fatto l'attacco al Ghero perché passasse e non c'era posto, l'ha pronto soccorso, l'hanno portato al Ghero. Molto spavento, molti ematomi, però niente di grave, dai. La macchina proprio deve essere aggiustata, si cambierà. Adesso perché ci sono stato la macchina deve essere rimbalzata, quindi è costa, però è sempre meglio che non si salve la vita. E ci chiama la mandata. Sì, era una bella bestia, dice che era una bella bestia. Tu figuri, le ha strappato la ruota, la semiasse, dalla botta che ha preso, capito? Era una bella bestia, dice che era lì in cunetta, ha visto anche altra gente che pensava. C'era già la polizia, l'ambulanza, non hanno fatto via. E vabbè, comunque, è importante raccontarle queste storie. Ma adesso quel cinghiale lì lo prendono e lo danno alle comunità. Lo dividono e lo danno alle comunità. Che poi non so se non mangia niente, ma comunque lui dovrebbe chiamare la forestale fa un verbale, io lo so perché c'ha avuto un amico mio carabiniere, si è distrutto la parchetta della Fiat, che ce l'ha presa, l'ha distrutta e si è fatto male anche lui. Sì, ce l'ha presa, ma lui non era in grado di fare niente, poverino, era dentro la macchina, l'ha tolto qualcuno di passaggio, poi è arrivata l'ambulanza, ma non è in grado di fare denunce, sta adesso, poi vai quando si riprende. Ah beh, quello sì, ma penso che ci abbiamo pensato in carabinieri a segnalare, perché c'è un'assicurazione sulla strada che paga, quando il carabiniere ce l'ha fatto male veramente, si è distrutto la banchetta e la piede che era per bella, la teneva bene, lucida sempre, la distrutta vicino a Portoferro la presa. Poi anche lì è zona, dai. No, siamo in valle di cinghiali, ho visto anche le foto di Sassari, in giro per le varie piazze, dai, ormai loro sono i padroni. Qualcuno ha fatto una battuta, mi non uscire mi veglio che ci sono i cinghiali fuori. A Roma non hai visto quel filmato di Roma, che praticamente è uscito il padre con il figlio e si sono avvicinati a un gruppo di cinghiali, ma non pochi no, beh. Piccoli, ma qui non li stavano facendo spaventare, il padre ha detto cose, ci alzavano, faccio un cannato. E anche la sigaretta in faccia l'hanno mangiata, per i baci. E mia sorella lo stesso, stava mangiando un panino la sigaretta, sono andata a fare una gita, la mica le puntane in un pezzo. E era andata a mio pezzo da moscicato tutto, lo sai, erano tutto, e c'è il sangue. Io ho visto anche addirittura a bordo gommone, nuotandomi in ingresso questi cinghiali, allucinante. Natalino, ci sei? Giulio. Ah, io non andare in quello che ci la poppa, che è andiamo a cinghiali. Posso andare a casa, che mi arrestano? Non ho portarmi per andare a casa. Noi lo facciamo di nascosto, ci nascondiamo. E dopo però faremo i cinghiali. La no, che anche loro stanno coatti, che non vogliono pigliarsi virus, tutti imboscati sono. Comunque uno mi ha detto che quando erano lì piantati, mangiando con le cassolini, ha preso la paletta per tirarlo, ma poi ci ha ripensato, l'ha lasciato stare. Sì, la palestra è anche silenziosa, non senti nulla. Solo che poi che schifo, va scoiato, va, oh, che cosa schifosa, io non ne potrei fare, non ne potrei fare, mi sento male io. Lo porti a casa, fanno le chiudi, già c'è campagna, prenderlo, lavorarlo, bruciarlo, farlo, e non è possibile, non puoi fare certo a casa dopo il lavoro lì. Nella vasca da bagno. Si può fare, ti metti la papoletta e lo puoi curare. Mamma mia. Va bene. Comunque io ho visto che io stasera proprio mi riguardo i soliti film che parlano di virus letali per passare il tempo. Non mi tange. Vai fra. No, film a tema adesso. No, film miei, cassetta, DVD, eccetera. Ma guarda, come dicevo l'altra volta, ce n'è uno molto attinente a questo periodo. È fatto bene senza cavolate di militari, si intitola Contagion, è molto ben fatto, un po' la situazione è quello che sta succedendo, un po' così, diciamo che è un virus diverso quello era un virus che provocava un'encefalite, no? Riusciva a passare dal sangue, riusciva a passare la barriera ematoencefalica e veniva in diverso, e questo prende i polmoni, il nostro. No, ma io già non mi faccio un problema del virus, si sta a casa, pazienza, quando passa la tempesta si esce di nuovo, non è che non mi suggestiona quello. E c'è, appunto, mi hanno detto che c'è gente proprio cagazza, scusate il termine, che proprio ha il terrore di queste cose. Invece una mia paura è i ragni, io i ragni proprio a pelle non li sopporto, è una cosa più forte di me, se me ne sale uno addosso inizio a strillare tipo Donicciola. Vabbè, mi sembra un ragno violino. Ma finché è un film, poi questi ragni, i nostri sono ragni che non, se li vedi non valgono 2 lire, ed è uno il ragno violino, che quello sta in casa, quello proprio è abitudinario delle case, e poi c'è quello che trovi nelle campagne, io non l'ho mai visto, quello piccolino, nero, col dorso bombato, nero con i puntini rossi, che sarebbe la malmignatta, così si chiama, che sarebbe la vedova nera del Mediterraneo. E sono piccoli come ragni, non è roba grande. Eppure, almeno nelle persone sensibili, ci può essere una vera e propria reazione anafilattica. Marco, oh. Io una volta ne ho portato uno con l'ambulanza, tutto da ragno. Ma tu dovevi vedere questo uomo, cazzo, si dimenava tutto, mai visto una cosa del genere, gridava, si dimenava, l'ho portato tutto il soccorso, non sapevano cosa fare, lo chiamiamo centro operini, cosa facciamo? Erano i dottori, non sapevano cosa cazzo fare, questo che gridava, tanto fate un antidolorifico, cazzo, da voi vi pensate cosa va? Questo qui che gridava, saltava proprio, cazzo, sulla barriera, era legato, saltava. fatto tre parti. Dopo che forse anche un cicletto che l'ha visto, che è andato sotto il pantalone in campagna, stava tappando, è andato sotto il pantalone e l'ha fatto. E da lì deriva il termine tarantolatomi. Ma Giulio ha chiuso, c'è ancora? No, ci sono per sé. Sì, stavo solo appena rientrato, ero al telefono. E beh, tanta gente che ha bisogno, perché ha paura di certi animali, e per quello c'è gente che ha paura del tempo, per carità, uno di questi che abbiamo qui. Guai se non avesse a vedere un tempo. Parte il record mondiale di velocità che ho fatto. E poi sono animaletti che non cosa fanno niente. Io da bambino ci giocavo, sia con i ragni, con i piedi, ci giocavo tutti, non avevo pure che era una cartina, che era piena il ragno. Andavo di prendevo da questa cartina, perché c'era l'italiata, che era roba, dai, stata ripeto, allora. E io cercavo di mettere dentro un barattolino, di mettere la barattolina, e ci giocavo qua, con il ragno. Io invece vicino a casa c'era questa finestra bassa e c'era praticamente una ragnatela dove c'era un ragno tre grosso, quello che non ricordo. E li mettevamo le formiche, le mosche, per vedere come se le mangiava, le uccidiamo tutto quanto la lana della ragnatela che ci aprivano, si ripeteva tutti i dopo. Il giorno dopo tornavano e non ce la mangiava già mangiata. Oh, scusate, mi devo salutare, dai. Dai, ciao Giulio, Claudio, se sei in ascolto, un abbraccio. Ciao Marco, Natalino, Gianni e quant'altro, non mi ricordo più. Un abbraccio a tutti, riprendi Gianni. E ya, ciao, bravo, dai, un po' di lì e buona continuazione di serata. Avanti Marco, riprendi. Ciao Franco, buona serata, buon tutto, dai, ci sentiamo. Giulio. Ok, ciao, grazie della chiacchieratina, dai, ci sentiamo le prossime. Questi giorni intanto siamo obbligati a rimanere a casa e avremo modo di sentire sicuramente. Ciao ancora, grazie ancora la chiacchierata, ciao. Allora, vediamo. Ciao, pagata, guarda. Si sa che chiudo anche io, vado ascoltando per il giornale, perché anche io sono un po' preso, guarda, ti dico la verità, la mia speranza è sempre proprio presso quella di tutti, sia se è sempre quella che diminuisce, che invece ogni volta che c'è la telegiornale aumentano sempre di più i contagiati. E quello lì non è che ti fa stare tranquillo. Io non è che sia che abbia una fobia, però nello stesso tempo un po' mi tocca. Sono oggi, sembra di aver sentito, che sono molto in roba di 170, una cosa del genere, sono lui, in Italia, per cui lui è un problema grande, questo fatto del coronavirus è veramente un problema, ma grande, grande, grande, grande, e tanta gente non l'ha ancora capito, perché ci sono qui con le persone un filo cretine, perché secondo me sono persone cretine, e fanno il giro e non si preoccupano che possono essere solo trasportatori di giro. Magari possono essere anche sani, certo, però ricordiamoci che questo è un virus e lo trasportano le persone. Dunque, ognuno di noi può avere un contagio e lo trasporta e lo manda su altre persone. Dunque bisogna avere molta cautela, molta prudenza. Basta. Avanti, Marco. Già, poi tu sei anche sensibile perché sei convalescente ancora da un'operazione importante. In farmacia ho sentito in quei due minuti che c'ero due persone già chiedere delle mascherine, però ha detto che non gliele hanno portate, le hanno ordinate e non le hanno portate. Anche perché gran parte delle mascherine avevo sentito che le avevano dirottate, tutte per personale medico, protezione civile, forze di polizia, perché alla fine sono quelli che sono sempre a contatto con chiunque e quindi volevano dare la priorità giustamente agli operatori sanitari, protezione civile, polizia, forse anche esercito, ma l'esercito ha ben altre cose ancora più efficaci. E tu pensa che se dovesse ammalare la classe sanitaria, puoi immaginare che avrebbe il problema grosso che deve essere, e chi cura allora assicurerebbe le persone. Sapete, loro hanno la priorità di acquisto di queste attrezzature, perché se no si prendono a lavorare tranquillamente. A discapito piuttosto con l'assicurazione, ho detto. Vabbè, comunque, speriamo che credo io che siamo tutto là, faccio due venti, grazie per il corso, ci sentiamo domani. Ciao. Ok, ciao, ciao, già, e addio, tra due o tre minuti più addio, sono già le 8, per cui è ora di sera. E già, allora, Marco è già cenato, ho preso il pranzo cenato, io vorrei, non è che ho fatto in questo momento, perché adesso le 6 e mezza, non voglio dire, ho mangiato la pizzetta, l'ho mangiata, per cui, ma, però noi, per cui ci vediamo questo. Ciao già, per tutti, vai Marco. Ciao Gianni, dai, sentiamo. E io forse accenderò anche spesso, anche per ascoltare, perché tanto alla TV a me non piace stare tutto il giorno, come invece fa mamma mia, 20 ore con questa TV accesa, l'accende se quando si sveglia, la spegne di notte, quando, di notte tardi quando prende sonno. Più 20 ore di televisione accesa al giorno, io no, io la accendo verso le 9 così, peccato per film, eccetera. Natalino, ci sei ancora? O stai mangiando? No, tutto è chiuso, vabbè che sono le 8 ore di mangiare. Ti dicevo Giulio, purtroppo certi operatori sanitari si contagiano perché, cioè, o segui addirittura il protocollo NBC, non riesci a essere completamente, è una cosa delicata, addirittura il protocollo NBC prevede maschere integrali antigas con il filtro P3, no? Per la polvere, nebbie, fumi e anche virus, tutta integrale, guanti, doppi guanti anzi, e addirittura devi nastrare col nastro americano tra i polsi, e addirittura devi nastrare sul bordo tra la maschera e il cappuccio, deve essere nastrato, non deve passare una molecola, nulla, non deve passare nulla, figurati quanto è puzzolente il virus. Certo, ebbene, quello bisogna, è una prudenza necessaria quando la cosa è richiesta, perché no, come si fanno? Come farebbero allora i medici a guarire le persone? Qual è che si chiamano loro in questa zona? Allora sarebbe la fine del mondo, sarebbe qualche altro, speriamo anche che loro procedano con tanta pazienza e con tanta salute, bisogna guardare tanta salute con la gente, perché se no si immagina che come farebbe la gente adesso è curata, però qua, veramente, sarebbe veramente un grosso, ma grosso problema. Purtroppo è così, è andata così, ma dopo speriamo che finisca presto, cosa brutte comunque. Vabbè, dai Marco, chiudo anch'io, dai, sentiamo, siamo alle prossime, alle prossime, grazie per la chiacchierata, alle prossime Marco, ascolto fino a giro, poi chiudo, ciao Marco, ciao. Ehi, a Giulio, dai. Sentiamo le prossime, anche domani, tanto ti ho detto, se dove vuoi andare, me ne vado in giro, e stare tappati a casa. Ci sentiamo, buona cena, buon tutto, io altro che cenare, io ho pranzato praticamente prima, la cena è a mezzanotte, solita storia. Ci sentiamo appena possibile, dai, ciao Giulio, ciao. Ok, ciao, ciao di nuovo, ciao. C'è rimasto qualcuno?